Sono il più pazzo tra i pazzi. Sì, sono il più pazzo tra i pazzi. Hey, sono il più pazzo tra i pazzi. E dillo forte cosa senti. Sono il più pazzo, sono il più pazzo. Perché racconto la vita del cazzo. Sono il più pazzo, da quello che scrivo, da quello che dico. Mi comporto da pazzo, vivo da pazzo. Sono il più pazzo tra i pazzi, il più pazzo. Sono il più pazzo tra i pazzi. Ho perso troppo il lume della ragione. In tutto questo tempo non rifletto. Quando commetto un'azione, sconvolgo la gente con il mio fare da incubo. Perché sono nessuno, e come ogni nessuno, sono voce di ognuno. Quanti, specialmente di quelli che vogliono bloccarmi, sono di sopra di tutti, modifico i tempi, sono un passo avanti agli altri, voglio amarmi, voglio odiarmi, ma l'importante è che ne parli, quando sfugo rime, che risulta sconvolgente, mi divincono le prende in questa gabbia, con la camicia di forza che mi blocca, sono la minaccia che ti preoccupa, ma non canto d'amore, della vita quotidiana, come fanno quei cazzo di Sonora, sono della medaglia, l'altra faccia, quella che non ti aspetti, sono un ragazzo del Borgata, che scagna la sua pazzia. Sono il più pazzo tra i pazzi, e dillo forte cosa senti. Sono il più pazzo, sono il più pazzo. Perché racconti la vita del cazzo, sono il più pazzo. Da quello che scrivo, da quello che dico, mi comporto da pazzo, vivo da pazzo. Sono il più pazzo tra i pazzi. E passa il tempo, e passa tutto. Io faccio ciò che mi sento, dico ciò che penso. Faccio un passo avanti ed uno indietro. In pratica non rimango mai fermo, sono il più pazzo. E non ripenso ad ogni azione che ho commesso. Per stare a sto posto, chiuso in una stanza, ho ucciso la decenza. Né di una tiro su di un foglio per darmi forza. Sono senza spunti di ritorno, quando l'aria che ho intorno lascia il posto, ando c'è il fumo. Sono un pezzo di merda con un microfono in mano, nell'altra una birra, mentre le ragazze giocano con i miei cazzo. Fanno sentire il loro affetto, ma tengo sempre lo stesso pensiero fisso. Voglio fare sassi violento con la Giusi sul parco di Sanremo, e poi spararmi in stanza un colpo in testa come Tenco. Sono il più pazzo, sono il più pazzo tra i pazzi. E dillo forte cosa senti. Sono il più pazzo, sono il più pazzo. Perché racconti una vita del cazzo. Sono il più pazzo, da quello che scrivo, da quello che dico. Mi comporto da pazzo, vivo da pazzo. Sono il più pazzo tra i pazzi, il più pazzo. Sono il più pazzo, e lo ripeto, più volte nel ritornello. Non vedevo il giusto modello, sono sempre pronto al duello. Sparo una rima, che ti seguo sulla scena. Ti basta una battuta, per andare in cima, e fatta andare in caduta. Rima obbligatoria, ma lo sai, che non sono più bravo nel fare freestyle. E se chiederai in giro, non capirai, ma vedrai. Un altro pazzo che si tira fuori, altro che il rabbit night mai. Con il suo odio per un genitore, la rabbia perché tutto va male. Lavorando giornate intere, senza conquistare un emerito cazzo. Per questo voglio essere più pazzo, sconvolgere il mio testo. Per questo uno al mondo che sono il più pazzo tra i pazzi. Sono il più pazzo tra i pazzi, sono il più pazzo tra i pazzi. Sono il più pazzo tra i pazzi, dillo forte cosa senti. Sono il più pazzo.